Absolute Beginners, siete in diretta, più o meno, non è vero, questo è un podcast, ma comunque siete in compagnia di Sassà e Babe e anche questo podcast parlerà di esordienti allo sbaraglio, comunque esordienti che non hanno mai avuto un grande successo o magari come in questo caso un po' di successo hanno avuto. Benvenuto Sassà. Ciao Babe, un saluto a tutti quanti e sì, stasera parliamo dei Make Up. I Make Up sono un gruppo di Washington DC. Un gruppo che in realtà, dai, diciamolo, negli anni 90 ha avuto un po' di successo. Sì, anche dovuto al carisma stratosferico del loro frontman. Hanno prodotto 4 dischi a cavallo della seconda metà degli anni 90. Beh, e ci risentiamo. Ve li facciamo sentire subito. All the sadness and the misery, it gave me one little pearl, and that was you, girl. And in this war that we fight, you and I unite against the world. Come on, I can show you the Questi erano in make-up, l'avrete capito, ormai c'era poco di punk record, la famosa scena di Washington, ma non siamo più negli anni 80, siamo nel 95, questo Live at Cold Rise è un finto live, non è un live, è stato registrato però da Guy Picciotto, che della scena originale di Washington era uno dei portabandiera, perché era chitarrista, cantante dei Fugazi, famosissimi, già negli anni 90 e ancora prima, e i Make-up erano un gruppo assurdo per certi versi, perché partono, sembrano un gruppo revival, ma non lo sono. Ma sì, loro dicono di suonare musica gospel, la gospel, cosa, yeah, gospel, sound. Yeah, yeah, sound, e loro lo definiscono così, è una miscela pazzesca, una miscela dove non si riesce a distinguere veramente, non possiamo dare un nome alla musica che abbiamo ascoltato. Sì, perché Jens Venonius, che è il cantante, leader incontrastato di questa band, che comprende anche Brendan Canty, appunto, fratello di James Canty, del batterista dei Fugazi, Steve Gamboa alla chitarra, erano già in un altro gruppo, ma facevano tutt'altro. Si chiamavano The Nation of Ulysses, sempre a Washington, ed erano un ferocissimo gruppo post-hardcore. Beh, loro forse qualcosa a che fare con l'hardcore ce l'hanno avuto. Adesso ve li facciamo sentire. When I say I'm in love, you best believe I mean I'm in love, L.U.V. Ma tu cosa ne pensi? Perché un gruppo hardcore poi si cambia e si mette a fare del garage punk, ma neanche punk, un miscuglio di garage o comunque di sonorità 60s, addirittura registri un finto live come si faceva negli anni 60? Ma è incredibile, in realtà me lo sono chiesto, mi sono posto questa domanda, mi sono chiesto perché i Nation of Ulysses nel 95, dopo aver suonato dall'88 credo, questo tipo di musica marcatamente hardcore, che però comunque piano piano negli ultimi anni stava entrando anche, si può parlare di free jazz quasi, perché Jens Venonius suonava la tromba, soffiava in questa tromba. Sì, suonare è una parola grossa. Esatto, come sbraitava con la sua voce, i suoi testi impegnati, diciamo così, allo stesso modo sbraitava soffiando su questa tromba. E forse il motivo è solo quello che hai accennato tu prima, ovvero l'hardcore forse era veramente finito e quindi c'era bisogno di passare a qualcos'altro. Lui dice così, o direbbe così, per reazione a qualcosa che sembrava ai suoi occhi, orecchie, come passato o già troppo codificato, un provocatore nato. Tenete conto che questo album dei Nation of Ulysses si chiama 13 Points to Destroy America, ma ovviamente c'è tutto un manifesto scritto dentro oltre ai testi del disco, c'è tutto un manifesto che racconta come si dovrebbe minare la nazione americana, e separandosene e creando una nazione di giovani, ma è tutto un modo grottesco di prendere in giro, molto postmoderno come modo di fare, tutto e tutti. A quel punto probabilmente presero la palla al balzo, perché qualche problema l'avevano avuto, uno dei Nation of Ulysses era diventato padre, e si rilanciarono e si ricrearono come Makeup. Eccoci qua, siamo tornati ad Absolute Beginners e siamo anche tornati ad ascoltare i Makeup dopo aver dato un assaggio ai nostri ascoltatori di Nation of Ulysses. Siamo tornati ad ascoltare Destination Love live at Cold Rise, abbiamo detto questo finto live, sentiamo anche applausi e schiamazzi di un pubblico che chissà se era lì presente o se era semplicemente un sample preso da qualche parte. Propendo per la seconda, ma sì. Avevano probabilmente registrato il pubblico in qualche altro concerto, erano in giro comunque da un anno, facciamo nel 1995, ma già i Makeup compaiono in un film underground ambientato a Kentucky, in Kentucky, a Louisville, che mostra le vicissitudini di una band che erano poi Rodan, una band post-hardcore di Louisville, e dove loro vengono depredati del furgone con cui, perché i Rodan non avevano il furgone per andare in tour, e rubano o prendono prestito, insomma, il furgone di make-up per andare in tour, un micro tour nei posti, nei bar, nei locali più poveri e improbabili del Midwest, e compaiono i make-up già vestiti e agghindati, tutti uguali, con una divisa molto elegante, con un tanto di cravatta, vestiti di nero, sembrano veramente usciti da un film anni 60, ben pettinati, con il ciuffo di Elvis Presley, cosa che ovviamente nel hardcore, nel rock and roll, era ormai caduta completamente in disuso, se non tra le cover band forse. Certo. Ma ovviamente il buon provocatore Ian Svenonius ne fece un'indicazione programmatica. Sì, fa la parodia di tutto e di tutti che citavi prima. E poi dice proprio espressamente: ci hanno deprivato di tutto, siamo già nei 90, l'unica cosa su cui abbiamo un minimo di controllo è il nostro stile, l'unica cosa importante. Yeah. got many words, how many bullets, yeah, what I'm gonna say. Come si fa a fidarsi di un cantante che canta Don't Mind the Mind? Penso che quasi il 90% delle cose che Jens Vinonius rilasci nelle sue innumerevoli interviste e nei suoi libri, ha scritto un libro che si chiama The Psychic Soviet o qualcosa del genere, che si rifà un po' al libretto rosso di Mao, ma invece di essere rosso è rosa shocking. Rosa shocking, come appunto alcune sue dichiarazioni. Beh, sicuramente un personaggio, no? Che contrapponeva alla musica rock and roll che lui definiva capitalista, sì, il proprio gospel inteso invece come rivolta marxista e socialista, semplicemente alla standardizzazione del rock and roll e la fine. Sì, sì, ma già i Nation of Ulysses erano pieni di rimandi alla scuola di Francoforte, agli strutturalisti francesi, a tutto il pensiero marxista sessantottino. Ovviamente i rimandi erano, come dire, grotteschi, e anche con i make-up non si risparmia. Penso che Jens Vinonius abbia un talento da sacerdotale, da imbonitore d'altri tempi, un po' come Jello Biafra dei Dead Kennedys. Sì, oppure anche come ogni tanto si può quasi confondere lui a scimmiottare James Brown, che anche lui era comunque una figura di riferimento nella cultura popolare. Vabbè, se vi ricordate James Brown che indica a John Belushi che ha visto la luce. Esatto, nei Blues Brothers. They tried to put me in a shelf. They tried to put me in a can, stick me in a bottle, stick me in a needle, put me in a vein. And I had to say baby, we can't be contained. I want you to say. They tried to keep me inside. Yeah, they tried to keep me locked up and tied. And I said, mama, I don't even feel like I'm alive. Yeah. Put me on a show. Yeah, package me, baby. Try to put me in a bottle or a can. They try to use my name, act like it is the same. And I had to put out my hand. I had to demand. Thank you. certo che anche Don't Step on the Children, non schiacciare, non calpestare, non calpestare bambini. I bambini, mi sembra una buona regola, no? Ma sì, diciamo che ai loro concerti penso si possa divertirsi assai. Dicevamo, Jan Svenonius, un predicatore mancato di quelli che si vedono nei film bianco e nero americani, con i predicatori che andavano a evangelizzare il selvaggio West, non lo so. Comunque, di sicuro la sua carica istrionica e provocatoria non è mai venuta meno, passando dall'hardcore al garage. Vero, questi suoni sono suoni che esistevano da 30 anni già, era roba anni 50, 60, 70. Assolutamente, sembra una spremuta di un trentennio di musica americana e beh, non è un caso che lui, sembra un predicatore, si diceva che la sua musica è musica gospel, dove comunque forse sentiamo dei ricordi, ma sentiamo anche del punk, del soul, del surf, insomma è un bel mischione. E hai nominato le loro performance live, dove loro cercavano di coinvolgere il pubblico, anche questo è un atteggiamento molto gospel, dove c'è botta e risposta tra chi canta, o diciamo un musicista, e chi invece risponde cantando, ovvero l'audience, gli spettatori. Qua però secondo me più che botta e risposta era un botta in testa. Botta in testa. Non lo so, comunque era, non so quanto call and response ci fosse. Shackles of your arms, lock of your lips. When I was in prison, you brought me cigarettes every day. When I busted out of that place, you gave me somewhere to stay. When I lost all faith, you showed me how to pray. And when I was locked out of the gates, oh, yeah, you made a copy of the key. Now I'm saying, how can you get now? I was losing blood so fast. Yeah, you sewed up my wrist. And when my mouth was parched and dry, you blessed them with a kiss. And when my throat was sore, yeah, you gave me lozenge. And when I thought the dream was up, you said, baby, it will never end. And now I'm saying, members, but not a single believer. We, the faithful, we step outside this commerce, and we wait this reckoning with glee. All right, we're here to tell it like it is. Can I say yeah? Yeah. Can I say yeah for the final judgment? Yeah. Can I say yeah for the tribunal? Yeah. All right, all right. Just trust what I believe her. Do you believe? And bow me to my knees. Pave new street where your kiss is all I need to eat. Beh, in effetti forse siamo noi tra i tanti migliaia di affiliati a questa fede senza alcun credente. Probabilmente sì, vabbè. E magari anche chi ci ascolta qui ad Absolute Beginners, chi lo sa. Sono sicuro che qualcuno. Sono gli affiliati a Rock and Roll. Sì. Ancora ce ne sarà ben qualcuno, eh? Beh, continuiamo ad ascoltare Destination Love, il primo album registrato nel 96 per Discord Records, abbiamo detto. Seguirà poi Sounds Verité, In Mass Mind, Save Yourself. E la musica rimarrà bene o male la stessa, non ci saranno tanti cambiamenti, anche perché cosa si può cambiare in una musica così piena, così straripante? E tra l'altro, compilation del 99, I Want Some, contiene tantissime tracce. E sono una più bella dell'altra, una più piena dell'altra. A volte, per assurdo, questa musica può dare la sensazione di essere fin troppo. Beh, forse riflette il cantante, il frontman di Jan Svenonius, che di sicuro era di personalità ne aveva da vendere. Sì, come si dice, era un personaggio sopra le righe. Sopra le righe. Thank you. Siamo nel 1995, l'idea di recuperare il passato, questo modernariato rock, non era solo dei Make-Up, c'erano altri gruppi, cito John Spencer, Blues Explosion, 68 Came Back, gli Oblivions, i Gorillaz e altri, i Chrome Cranks, e comunque il garage non era mai morto, i Cramps suonavano dalla fine degli anni 70 ininterrottamente, per esempio. Però devo dire che i Make-Up a modo loro erano unici, immediatamente riconoscibili con un sound tutto loro, anche il contributo della bassista Michelle May con i suoi corretti proprio stile anni 50, proprio da soul, da rhythm and soul, erano solo unici, solo loro facevano questo tipo di musica. E comunque a livello underground, qui ad Absolute Beginning spesso passiamo musica veramente completamente dimenticata, cioè non so quante persone dopo 25 anni si ricordano di questo disco, però a livello underground, dicevo, i Make-Up ebbero un loro riscontro. Sì, mi piacerebbe sottolineare un attimo di... tu hai parlato di revival, insomma, avevano tanti credo questo gruppo e questo leader, Svenonius. È interessante quando gli viene chiesto cosa ne pensa della scena elettronica, della musica dance degli anni 90, e lui dice: ma io sono quasi contento che venga a prevalere sul rock and roll, perché questa musica è inclusiva, fa parte di tutti e ognuno si può esprimere, e io penso che questo sia stato detto da lui in relazione alla danza delle persone, quando forse appunto il rock and roll è diventato una cosa molto, un fenomeno molto individualista, dove c'era una rock star che si presentava sul palco di fronte a spettatori immobili che non partecipavano, non prendevano parte alla performance, cosa che lui stesso per primo faceva in maniera grottesca. Esatto. Vai a capire se dicesse la verità, ma chi lo sa, o fosse un'altra provocazione. Baby, baby, oh, baby, oh. out in your Red Sea. So I said, I could be free if you do say yes. Yeah. And I want you to tell me, do you remember when the Red Army, yeah, in 1917 overthrew the Tsarist regime? Say yeah. Baby, that's like you and me. Yeah, it's called destiny. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Absolute Beginners. Come esordiente non c'è male. Beh, ci siamo divertiti. Anche loro si divertivano e si divertiva anche il pubblico dal vivo. Questi erano i Makeup, puntata dedicata a un gruppo che sì, poi un po' di successo l'ha avuto, l'abbiamo detto. Spero vi siano piaciuti, ci sentiamo alla prossima puntata, al prossimo podcast di Absolute Beginners, grazie per l'ascolto e per la pazienza, saluti e a risentirci. Alla prossima.